allora cosa dovrei fare, padre? Camminare coi piedi per terra, sì, ma con il cuore già sopra i cieli, oltre ciò che la tua persona può raggiungere con gli occhi o con l'intelligenza. Dio, non dimenticarlo mai, Dio. Lui stesso ci ha detto, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. Non fare del vino un Dio, Bacco, non fare dei piaceri carnali una Venere, non fare della ricerca di fama, di stima, di rispetto, di gloria, una goffaggine. Non avrai altro Dio fuori che me. Non fabbricare la tua casa sul ponte. La dovrai lasciare. Inesorabile verrà lei, sorella morte e maestra. Maestra per gli intelligenti che ragionano da saggi. Quali insegnamenti? Mi diceva appunto dottor Gatti, don Nigino, lei come ha fatto ad innamorarsi della vita? Assistendo al trapasso dei morenti. Oh sì, molto più che non studiando sui libri. Impariamo a stare al mondo. Sì, dobbiamo camminare sulle strade di questo mondo, ma con il cuore, già là. Già prenotiamoci il posto. Sentite, no, un segreto, me lo accettate questo segreto. Cosa diceva la mamma di Valentino? Valentino, ricordati, quando vai a letto, raccomandati l'anima a Dio, perché verrà una sera nella quale tu passerai all'altra vita e dove dormirai la prima notte ci resterai per sempre. Valentino cieco, ma come ci vedeva bene nell'anima. Amici, quando sopraggiunge la sera e finalmente possiamo andare a letto, facciamoci una domanda, una semplice domanda. Oggi ti sei prenotato il posto nella casa di Dio? Oggi? No, oggi ho bestemmiato, no, oggi ho offeso il prossimo, oggi ho peccato di impurità. Ah, oggi, diem perdidi, giorno perduto, non ti sei prenotato. E se piombasse questa notte, l'ultima ora? Questa domanda piccolissima, siate bravi, imparatela, fatevela, incominciando da questa sera, tutte le sere, e dormirete tranquilli se alla vostra coscienza potete rispondere sì. Oggi mi sono prenotato il posto, è un bel posto, perché ho tribolato oggi. Dietro le mie bestie, dietro la campagna, dietro i miei affari, nella mia famiglia, ho offerto tutto a Dio. Senza offenderlo, gli ho offerto tutto. Mi sono prenotato non un posto di terza classe, di prima classe. Dormi di gusto. Capitasse anche il terremoto, tu quel posto l'hai prenotato e nessuno te lo ruberà. Neanche la morte più crudele. Nessuno te lo ruberà. Proviamo. Io sarei felicissimo se tutti voi imparaste questo. Ma un tizio mi diceva, padre, e se io mi trovassi allora di dover rispondere, come lei ha detto, oggi ho perduto, giorno perduto. Cosa dovrei fare allora? Disperarmi? No, no. Sotto il cuscino, sotto il guanciale, non hai un crocifisso. Forse sai la collanina al collo del crocifisso. Bacialo, come il ladrone pentito. Bacialo, addormentati nel bacio del Signore. Questo bacio ti liberi da tutti i fallimenti della giornata. Poi, quando potrai, andrai anche a confessarti, a cercare un sacerdote che ti garantisca il perdono di Dio. Intanto accaparrati quel perdono con un bel bacio, bacio d'amore, non come quello di Giuda, ma come quello della Vergine quando le consegnarono il suo Cristo morto. Nostra Signora, Madonna addolorata, la pietà del Michelangelo. Domanda importantissima. Oggi ho pernotato la mia stanza nel Regno dei Cieli? Sì, e credo anche almeno di seconda classe, forse anche di prima classe. Che giornata terribile oggi! Quanti grattacapi e fastidi, ma non ho offeso né Dio né gli uomini. E quindi ho fatto una bella pernotazione. Dormi, addormentati nel bacio del Signore. E quando verrà l'ultima, e forse ce ne accorgeremo, da tutto il traffico che ci sarà intorno, tutto un trambusto, ci accorgeremo. Quale sarà il pensiero più consolante? Quello d'aver faticato, tribolato per noi, per la nostra integrità morale, per la nostra famiglia, per la Chiesa, per il prossimo. Tutto questo sarà come una voce che ci dirà: il tuo posto è già prenotato, te lo sei prenotato tu, giorno dietro giorno, battaglia dopo battaglia, croce dopo croce, cadute, insuccessi e riprese, riprese, rinascite. Il tuo posto è già prenotato. Vado a prepararvi un posto. Ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro.